9 in punto. Ed eccoci, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, una buona giornata di nuovo da Simone Spezia e buongiorno al Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Allora, io voglio partire con lei naturalmente dalla cosa di più stretta attualità, probabilmente, che è quella dell'ILVA. Poi andremo anche su questo decreto del fare bis che voi state progettando e, ammesso il governo regga, insomma, intendete approvare naturalmente. E parleremo anche di cuneo fiscale. Però partiamo dall'ILVA. Allora, l'ILVA, come sapete, cari ascoltatori, ve l'abbiamo raccontato nei giornali radio, ha annunciato 1500 esuberi circa in 7 stabilimenti. Dopo che non è l'ILVA, ma è un'altra società. Chiama Riva Acciaio. Sì, la Riva Acciaio, sì, chiedo perdono, sì. È la Riva Acciaio, società dei Riva, naturalmente è collegato alla vicenda ILVA perché la magistratura di Taranto ha sequestrato una serie di società loro non direttamente collegate allo stabilimento pugliese. Allora, Ministro, secondo lei hanno esagerato i Riva? Sta esagerando l'azienda? Allora, intanto è importante capire quello che è successo e va raccontato in modo preciso, altrimenti non si capisce bene la faccenda. C'è un'indagine sull'attività dell'ILVA. Questa indagine, nell'ipotesi del pubblico ministero, confermata dal GIP, sostiene che nello svolgere l'attività di produzione dell'acciaio a Taranto, il gruppo Riva ha accumulato 8 miliardi e 100 milioni di utili illeciti, probabilmente attraverso il fatto che non ha rispettato tutte le condizioni onerose che servono a tutelare l'ambiente. A seguito di questa ipotesi giudiziaria è stato ordinato il sequestro cautelativo del gruppo Riva, dei Riva, per 8 miliardi e 100 milioni. In questo momento stiamo osservando, guardando, un'azione della magistratura che va a prendersi dei beni dei Riva, per raggiungere questi 8 miliardi e 100 milioni che, sempre nell'ipotesi accusatoria, devono essere messi sotto sequestro perché costituiscono un illecito guadagno. Non so se è chiaro. Allora, sì, chiarissimo. L'ILVA è una delle proprietà di sì. Dove si fa acciaio, dove si fa intanto ghisa madre con gli altiforni, dove si fa il coil, cioè delle bobine di lamiera. L'ILVA è questa cosa qua. Sì. Poi i Riva posseggono anche degli altri stabilimenti che fanno acciaio da rottame. Quando si fa acciaio da rottame non si usa il minerale ma si usa il rottame e il forno è un forno elettrico che fonde il rottame e fa acciaio da rottame. Proprietà dei Riva. Allora, noi abbiamo avuto, a seguito di una decisione che è di maggio, che è di aprile ancora, poi trasformata dal GIP in maggio e successivamente ridefinita il 19 luglio, un'azione della Guardia di Finanza tendente ad attuare questo sequestro per costituire questa somma di 8 miliardi e 100 milioni che serve a garantire che non sparisca un patrimonio che, secondo l'ipotesi del PM, è stato accumulato in modo illecito. Benissimo. È chiaro questo? Cioè, quindi, questa è la storia. L'ILVA è una cosa, è un'azienda dei Riva e Riva Acciai è un'altra azienda dei Riva. Tra di loro non sono necessariamente collegati, ma fanno parte tutti di un patrimonio. L'azione della magistratura tende a recuperare le somme per questo illecito guadagno che sarebbe stato fatto nel corso dell'attività dell'acciaieria ILVA. E questo è chiaro. Benissimo, abbiamo spiegato la questione. La domanda che lei mi fa è questa. Esatto. L'azione dei Riva Acciaio è sproporzionata rispetto al sequestro, cioè, diciamolo in un altro modo, potrebbero continuare a funzionare le acciaierie anche di fronte al sequestro, senza mettere in cassa integrazione o comunque chiudere le attività produttive? su questo sto cercando di farmi un'idea proprio in questi minuti. Le spiego perché. Perché un conto è se il sequestro avviene sul bene in attività. Sì. L'acciaieria è sequestrata, non è più nella disponibilità dei Riva. Un altro conto è se sequestro i conti correnti con cui funziona l'acciaieria. Vengono pagati i lavoratori, vengono pagati i fornitori. Lo snodo mi sembra esattamente questo, ed è questo il motivo, allora, questa è la motivazione dei Riva, no? Sto cercando di capire, attraverso il giudizio di esperti, di tecnici, se le acciaierie che sono oggetto di sequestro, anche con il sequestro dei conti correnti, possono funzionare. Se sì, la pressione fondamentale che eserciteremo sarà nei confronti delle acciaierie perché continuino a funzionare, anche con il sequestro. Tenga presente che il sequestro è più che legittimo, serve a costituire una scorta che è funzionale a pagare, a risarcire un danno, non si discute. Se invece non possono funzionare, dobbiamo capire come possiamo intervenire, con quali altri strumenti intervenire per rimettere le acciaierie in condizione di funzionare. E quindi il punto è, da questo punto di vista non c'è ancora chiarezza, cioè sta consultando gli esperti e sta cercando di capire da questo punto di vista come funzionano le cose. Cosa importante da dire è che queste acciaierie, che non c'entrano nulla con l'Ilva, potrebbero essere fabbriche di marmellata, sono di proprietà dei Riva. Il fatto che acciaio crea confusione, sono attività di proprietà dei Riva che sono state poste sotto sequestro. Fanno acciaio, ma potrebbero essere in un campo completamente diverso. Queste ha un senso sequestrarle come aziende? Mi domando se ha un senso andare a sequestrare i conti correnti con cui queste aziende funzionano. Questo è un punto che non mi è chiaro. Ora, queste acciaierie, se non hanno questo problema, non sono aziende in difficoltà, producono e vendono acciaio con un'attività che sta funzionando bene. Allora, ragioniamo, Ministro, su quella che può essere anche la tutela dei lavoratori, di questi 1500 lavoratori. Eventualmente, ho visto, siete pronti con la cassa integrazione. È un tipico caso in cui si può intervenire con la cassa integrazione perché queste aziende non sono aziende decotte, non funzioneranno più, al contrario sono aziende vive, dinamiche. Questo è un fatto positivo che voglio dire anche a tutti i lavoratori, perché A, c'è una protezione, un ammortizzatore, B, alla fine l'azienda riparte e venderà e farà e venderà l'acciaio, è chiaro, perché non, sarebbe ben più drammatico se il prodotto non avesse più un mercato. Perché a quel punto la soluzione è molto più difficile da trovare. Qui invece il prodotto ha un mercato e bisogna semplicemente risolvere un inghippo di carattere finanziario. Sì. E noi abbiamo due obiettivi importanti. Il primo è quello di tutelare i lavoratori che devono continuare ad avere un reddito e continuare a lavorare. Il secondo è continuare a far funzionare la nostra industria, perché quell'acciaio poi fornisce tutta una serie di altre fabbriche che usano l'acciaio come materia prima per le loro attività. Faccio un esempio, un'azienda che si trova in difficoltà è l'azienda Berco, che compra l'acciaio dalla Riva Acciaio. Se la Riva Acciaio non gli dà l'acciaio, non può evidentemente non può produrre, evidentemente. Sì. C'è una cosa che ancora non mi è chiara, devo dire la verità, nemmeno dai quotidiani che ho trovato oggi in edicola, e a dire la verità nemmeno dalla risposta che lei mi ha dato prima. Voglio capire questo, ma questi conti correnti bloccati sono riferiti alle aziende o sono dei Riva? Perché questo mi sembra lo snodo centrale, perché se sono delle aziende la mia domanda è: ma come fa un'azienda ad andare avanti se ha i conti correnti bloccati? Guardi, questo aspetto, siccome la notizia è a ore, non è a giorni, è un aspetto che sto proprio vedendo in questo momento. È quello che lei effettivamente... Le potrei dire che l'articolo 700 del codice di procedura civile non consente di sequestrare tutti i beni in questo caso, ma solo un quinto. Le potrei dire perché si pone il problema di garantire il funzionamento delle attività. E le potrei dire altre cose riferite a questo aspetto, però mi consenta, lo dico anche se so che siamo in una trasmissione, di essere prudente nelle affermazioni, perché prima mi devo fare un'idea fondata. Lo capisco benissimo, e detta francamente le fa onore, allora, insomma, invece di spararla. I magistrati, le dico anche questo, sono dell'avviso che i magistrati nei sequestri delle proprietà, dei patrimoni, devono svolgere fino in fondo questa attività, e che invece il punto di delicatezza che si devono eventualmente porre è non fare dei sequestri su dei beni strumentali, compreso il denaro, che intervengono invece nel funzionamento dell'azienda, per due motivi. Primo, perché si produce il danno di cui stiamo paventando e di cui abbiamo una forte preoccupazione: stop dell'attività produttiva e i lavoratori che non prendono lo stipendio. Secondo, perché lo stesso patrimonio si impoverisce. Un'azienda, se funziona, vale 100, se è ferma, vale enormemente di meno. Allora, vorrei chiederle ancora un paio di domande su questo e poi veniamo a tutto il resto. Innanzitutto, molto brevemente, una questione di agenda. Immagino che abbiate convocato l'azienda. Se non ho visto male da un suo tweet, già ieri notte ha incontrato i sindacati, lei, no? Sì, ho incontrato i sindacati, li rivedrò stamattina per fare il punto. Paradossalmente, lo dico, i lavoratori in questa situazione devono sentirsi più tranquilli che in altre. È molto più grave quando un'azienda non ha mercato per il proprio prodotto, perché allora la soluzione è solo nel cambiare il prodotto da portare nel mercato. Ovvio. Oggi invece queste aziende hanno un mercato per il prodotto dell'acciaio, e quindi il problema è solo un inghippo giuridico-finanziario che spero si possa rapidamente perfetto risolvere. L'azienda, quando la vedrà? Sono nella condizione di avere la cassa integrazione. L'azienda quando la vedrà? Allora, ho sentito, che qua complicatissimo da spiegare, si tratta di una società per azioni dove il socio di riferimento, il socio più importante è la famiglia Riva. Ma è una società per azioni, questa società ha nominato un consiglio di amministrazione il cui presidente o amministratore delegato, che qua sono impreciso, è Ferrante, e vedrò, ho sentito Ferrante ieri sera per farmi spiegare esattamente cosa era successo e per capire se è esagerata la misura di chiusura o no. Lui dice: non sono in grado di pagare gli stipendi, non sono in grado di pagare i fornitori, non sono in grado di dar fuori l'acciaio, non sono in grado di far nulla, questo sostiene, devo verificarlo. Per cercare di riportare la faccenda nel giusto alveo. Allora, punto uno, i magistrati devono avere a disposizione i beni che vogliono sequestrare, perché devono cautelare un interesse pubblico, e questo lo devono poter fare. I lavoratori devono poter continuare a lavorare e l'acciaio deve continuare a essere prodotto. Questi sono gli obiettivi. Immagino che vedrà Ferrante, oltre ad averlo sentito, no? Gli sto chiedendo un appuntamento per andare a fondo sulla faccenda. Allora, sta circolando anche, ho letto sempre dai giornali oggi, in una sua intervista, un'ipotesi di commissariamento. Cosa ci dice su questo? Ma riguarderebbe l'Ilva di Taranto nella fattispecie? Non ho capito. Sì, sta circolando un'ipotesi di commissariamento, leggevo oggi in un'intervista che ha rilasciato. Ma vedi, il commissariamento che abbiamo fatto con non sta circolando un'ipotesi. Alla domanda, ha pensato a un commissariamento? Quando uno ragiona su 100 cose che si possono fare, le prende una per una in considerazione, poi le prende in considerazione e le scarta, le prende in considerazione e le approfondisce, dipende. Allora, ho valutato l'ipotesi di un commissariamento, ma con la legge Ilva questo commissariamento mi pare impossibile, perché si parte da situazioni di disastro ambientale. Queste acciaierie non fanno nessun disastro ambientale, quindi non credo sia possibile operare con quel sistema. Cioè tecnicamente non è possibile, dice lei. Tecnicamente credo sia possibile rivolgersi ai tribunali civili, perché delle diverse realtà, per valutare se esiste un sequestro che non blocca le attività produttive e che quindi tiene sotto sequestro il patrimonio, ma non sotto sequestro i beni strumentali. Questa è l'ipotesi su cui adesso sto ragionando. Bene, quindi vedremo che cosa succederà da questo lato, appunto, dal lato dell'ILVA. Un'ultima domanda sull'ILVA, ci sarà un impatto su Taranto, sugli stabilimenti di Taranto o no, da questa vicenda? Allora, anche qua, no, adesso no, nel breve no, qui ho parlato con Bondi, mi ha spiegato benissimo. Anche là, l'ILVA di Taranto non è solo l'ILVA, è anche un Riva elettrico, cioè c'è un'attività che produce energia elettrica che non è di proprietà della ILVA, ma è proprietà dei Riva. Anche questa potrebbe essere, anche questa è stato oggetto di sequestro, ma mi pare che abbiano trovato una soluzione per continuare a produrre energia e pagare i lavoratori. Allora, passiamo ad altro. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, sì, assolutamente. Non no, ma materie così semplici. Ma sa, ministro, io mi rendo conto che la situazione è complessa, insomma, e appunto richiede anche delle analisi, tra l'altro su atti giudiziari, quindi oggettivamente, ma insomma, non lo dico per farle un favore, è la realtà, insomma, la realtà dei fatti, insomma. Allora, vorrei venire ad altri temi, partendo da quello che riguarda l'azione di governo. Innanzitutto capire molto semplicemente se secondo lei questo governo reggerà. Leggo due dichiarazioni degli ultimi minuti. La prima è di Olli Rehn, commissario europeo agli affari economici e monetari. Gli ultimi dati economici sull'Italia non sono buoni. Per assicurare il ritorno della ripresa è essenziale la stabilità politica. Il presidente dell'Eurogruppo, l'impronunciabile Dijsselbloem, dice: per l'Italia la cosa più importante è la stabilità politica. Reggete? Traballa? Allora, sul fatto che la cosa della stabilità politica sia importante sono d'accordo, ma lo si capisce anche intuitivamente, no? Molte delle cose, adesso sto seguendo questa vicenda, se cambi governo mica la posso seguire, non so chi la seguirà. Allora, il problema è che le decisioni che prende il governo devono poi essere continuamente seguite per poter diventare azioni concrete in 100 direzioni. Quindi il fatto di aver fatto un decreto e successivamente di aver trasformato un decreto in una norma di legge non significa che questa norma immediatamente funziona, servono tutta una serie di attività applicative su cui c'è, come dire, una guida costante, così come un'automobile non può essere guidata soltanto impostando la partenza e poi tutto funzionerà, ma deve essere guidata continuamente per correggere, frenare, sterzare, anche le attività di governo funzionano così. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è psicologico. Se uno non si aspetta dal governo soluzioni perché sa che traballa, non ci crede e, per esempio, se deve fare un investimento non lo fa. Allora, ministro, molto, reggerete sì o no? Ce la fate? Passa la buriana? Lei mi chiede una cosa a cui io non so dare una risposta, perché non dipende da me. Io posso fare uno spiccio. Alla domanda rispondo di solito: io faccio quello che devo e succede quello che può, che è una frase dei Einaudi: fai il tuo dovere e succede quello che deve succedere. Mi impegno dalla parte degli interessi del paese e adesso mi sto occupando dei lavoratori della Riva Acciai, e perché ci tengo moltissimo sia sotto il profilo occupazionale che sotto il profilo industriale, e mi faccio quello che devo fare. Non posso dirle cosa voteranno il Parlamento, consenta. Allora, non solo il Parlamento. Allora, questione di conti pubblici, 4-5 miliardi, dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, per il taglio del cuneo fiscale. son soldi da trovare, a cui bisogna aggiungere i soldi da trovare per la seconda rata IMU, a cui bisogna aggiungere, lei ieri ha detto, insomma, spero che riusciremo a non far aumentare l'IVA di un punto Miliardo. percentuale, di 1.000.000. Insomma, di soldi da trovare ce ne son tanti. Insomma, visto come stanno andando anche le cose sui mercati, il costo del finanziamento dell'Italia, insomma, non Allora, le le chiedo. dico intanto, io sto facendo una norma che consente di risparmiare 3 miliardi secchi nella bolletta elettrica dell'industria italiana. Di risparmiarli adesso perché si pagherà più avanti questa operazione. Cosa succede? Succede che in questo momento l'energia elettrica che noi consumiamo come aziende, come famiglie, paga anche tutti gli investimenti sulle Sì. rinnovabili. Com'è che li paga? Praticamente comprando l'energia elettrica prodotta con le rinnovabili a un costo superiore a quello di Sì. mercato. Questa cosa di sovrappagare l'energia elettrica delle rinnovabili ha consentito, e questa è la parte positiva, di realizzare impianti nel campo del fotovoltaico e dell'eolico Sì. per circa 26 gigawatt, una quantità davvero importante. Lei consideri che nel Sì. picco l'Italia consuma 50. Allora, solo di eolico e di fotovoltaico abbiamo 26, forse quasi 27 gigawatt installati. Questo investimento è un patrimonio del nostro paese e questo è un fatto positivo. Determina come conseguenza però un aggravio della bolletta elettrica. I cittadini e le aziende pagano una bolletta elettrica più alta. Mi sono posto questo problema: se lasciando tutti gli incentivi immutati, cioè con i produttori di energia elettrica, neppure parliamo di questo, scontiamo la bolletta elettrica con un bond, con delle obbligazioni, usiamo l'espressione obbligazioni, di 3 miliardi e poi queste obbligazioni le restituiamo a 20 anni. Siamo in grado adesso di abbassare di 3 miliardi la bolletta elettrica e vuol dire che E questo è quello che sta progettando nel famoso decreto del fare bis, no? questo progetto toglie all'industria 3 miliardi di 3 costi, miliardi di costi. che non è proprio Allora, poco. Dicono che togliamo 4 miliardi di cuneo fiscale, beh, 3 miliardi intanto di energia elettrica in meno è una boccata di ossigeno quasi equivalente. Brevemente, Ministro, perché so che poi ci deve salutare e insomma dobbiamo anche noi andare in una pausa pubblicitaria, se no mi ammazzano qua dentro. Allora, brevemente, però non mi ha risposto sul cuneo fiscale. Ecco, no, non le ho risposto sul cuneo fiscale. Le ho Breve, mi detto intanto, raccomando. no, le rispondo subito. Le ho detto, intanto ho un'operazione in corso Sì. che quasi, pesa quasi la Sì. stessa, con la stessa dimensione. E io ovviamente sono per ridurre il cuneo fiscale, ci mancherebbe, è uno degli elementi che rende poco competitiva la nostra produzione nei mercati interni e all'estero, quindi sono assolutamente per ridurre. Bisogna fare uno sforzo a cercare quei tagli nella spesa pubblica e quelle iniziative che riescono a recuperare la risorsa necessaria, cioè, L'ipotesi di 4 altrimenti miliardi subito siamo sui desideri. Come? l'ipotesi di 4 miliardi subito le sembra plausibile, fattibile in legge di stabilità? Onestamente è una cosa sulla quale devo riflettere con il Ministro dell'Economia, perché è lui che alla fine ha sotto Ai mano cordoni tutti della i borsa. soldi. Io spingo perché la nostra industria sia competitiva e vedo che la competitività della nostra industria nel lungo ritorna anche come un vantaggio fiscale, ma non è così facile. Allora, solo un sì o un no rapido di veramente di 20 secondi. Allora, dalle tre indiscrezioni che sono circolate su questo decreto del fare bis, l'ipotesi apertura di impianto produttivo in 30 giorni, 5 mesi in caso di necessità di VIA, di valutazione di impatto ambientale, ci conferma che questa misura la state studiando? Stiamo studiando una misura sui siti inquinati, in modo tale che chi svolge una nuova attività, un nuovo soggetto che assume un sito inquinato per svolgerci un'attività, non debba rispondere delle situazioni precedenti, ma ci sia una cesura, le situazioni precedenti restano in capo a chi è A inquinato. chi ha inquinato? Ecco, questo sotto il profilo penale è già così, sotto i profili profilo civilistico, e questo consentirebbe di mettere in moto parecchie risorse. Poi l'altra cosa grossa è sul credito. Ecco, i famosi mini bond per le aziende. Cosa volete fare? Il fondo di garanzia, garantisce lo Stato quando un'azienda che ha bisogno di soldi non è in grado di garantire con il proprio patrimonio. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è favorire l'emissione di bond con procedure fiscali e con altre procedure normative, in modo tale che l'azienda possa finanziarsi con i risparmiatori. Sono un bravo produttore di automobiline elettriche e ho piantato un'azienda, ho bisogno di credito per poter funzionare. Sì. Invece di rivolgermi a una banca, emetto dei bond. Dei cittadini diranno: beh, ma quello in gamba, mi compro quei bond che mi renderanno il 5-6. Perfetto, e là prevedete uno sconto fiscale per facilitare il tutto? Prevediamo delle facilitazioni fiscali. Ultima domanda: è circolata anche un'ipotesi nelle settimane scorse che in questo decreto fosse inserita la compensazione tra crediti e debiti pubblica amministrazione aziende, ci entra oppure no? Allora, crediti e debiti della pubblica crediti verso il, sì, insomma, credito, si hanno capito. Fiscale. Credito fiscale o meglio debito fiscale e credito presso la pubblica amministrazione, si hanno capito, non si riesce a compensare in modo immediato, perché immaginiamo sia un URSS che deve pagare un'azienda e questa azienda deve pagare le tasse allo Stato. Se l'azienda non paga le tasse allo Stato, com'è che lo Stato si rivale sull'URSS? È una mancata entrata netta. Quello che voglio provare a fare, è un'ipotesi, è invece una dilazione nel tempo. Se l'azienda avanza soldi da un URSS, torniamo all'URSS, e deve pagare le tasse, invece di imporgli una tempistica che è quella prevista, dargli più tempo in modo che possa recuperare ciò che avanza dalla pubblica amministrazione. Su questo sto cercando di fare un'ipotesi, devo vedere se è compatibile con le normative del nostro bilancio. Grazie Flavio Zanonato, Ministro dello Sviluppo Economico, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. 9 in punto. Buongiorno Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai, salve. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, lei ieri ha parlato di accanimento giudiziario nei confronti dei Riva. Lo confermo perché questa vicenda dei sequestri delle attività di Riva Acciai prosegue una linea della magistratura di Taranto che parte da un cervellotico calcolo in base al quale i Riva avrebbero sottratto all'Ilva di Taranto più di 8 miliardi. Naturalmente questo calcolo, che è alla base dei sequestri cautelativi, non è stato ancora discusso, non c'è stato ancora un giudice davanti ai quali discuterlo, e quindi a mio giudizio è frutto di uno sbaglio. Anche i magistrati di Taranto possono sbagliare, d'altronde hanno dato ampia prova negli ultimi mesi di gravi errori, come ad esempio quello di impugnare davanti alla Corte Costituzionale per 17 motivi la legge 231 e di non centrarne neppure uno, nel senso che la Corte Costituzionale ha chiarito che la legge era perfettamente costituzionale e legittima. Il ricorso alla Corte Costituzionale e la non applicazione immediata della legge 231 ha danneggiato gravemente l'Ilva, perché nella legge 231 c'era disposto il dissequestro di tutti i beni a terra, più di 1.700.000 tonnellate d'acciaio, non è stata applicata dai magistrati invocando la presunta incostituzionalità, e nel frattempo, quando poi finalmente a maggio la Corte ha decretato la perfetta legittimità e costituzionalità della legge, quei COILS valevano 300-400 milioni di meno, che nessuno ridarà all'Ilva. Voglio sentire Fabrizio da Venezia, buongiorno. Prego. Buongiorno. Ci siamo, prego. Ci siamo, buongiorno a tutti. Niente, io ho sentito l'intervento del Ministro, che è stato abbastanza chiaro, anche quello del Presidente adesso di Federacciai. Io più che accanimento giudiziario volevo fare la considerazione che secondo me è un'azione sconsiderata della magistratura, nel senso che anziché un sequestro fatto così in maniera appunto sconsiderata, non si poteva pensare a qualcosa di un attimo più articolato che poteva magari portare a un commissariamento e quindi evitare una cassa integrazione, evitare quindi di lasciare a casa i lavoratori e salvaguardare lo stesso gli interessi dello Stato in questo caso. Guardi Fabrizio, in realtà su questo il Ministro ha risposto poco fa, ha detto che il commissariamento, almeno da parte del Governo, naturalmente non è al momento tecnicamente possibile. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, ecco, visto che si parla di cassa integrazione, come al solito poi pagherà pantalone, cioè anche persone che non hanno avuto nessuna responsabilità in quello che è successo lì a Taranto. Niente, volevo dire, questo è uno dei tanti esempi, come a Mestre, come nella Valle del Sacco, a Colleferro, in cui i cittadini, sindacati, medici del posto, politici, maestranze, sanno perfettamente da decenni quello che succede. Colleferro lo sapevano dal 1957 e hanno tutti chiuso l'occhietto sinistro o quello destro. Adesso poi alla fine, certo, quello che succederà all'Ilva è un fatto che è chiaro che in qualche modo dovrà pagare, adesso non sono io a dover, ma quello che è stato fatto con la corresponsabilità di migliaia di persone, compresi i cittadini che vivevano in quelle zone. Guardi, che hanno fatto finta di niente. Guardi Stefano, questo e non è giusto che poi questo debba ricadere il peso su tutta la comunità degli italiani, non è assolutamente giusto. Guardi Stefano, le devo dire una cosa, che io non so se lei è un ascoltatore costante di Radio 24, in particolare di 9 in punto, ma è esattamente il ragionamento che ci fece a questi microfoni quando parlammo l'ultima volta dell'Ilva a Mariano Maugeri, che tanto ha seguito la vicenda, che è un collega del Sole 24 Ore, con il quale si ragionava esattamente su questo, ossia i Riva avranno le loro responsabilità, questo lo stabilirà la magistratura senza dubbio, e però c'è tutto un mondo dentro Taranto che comprende tanti elementi, no? Se vogliamo ci mettiamo dentro naturalmente la politica, i sindacalisti, tutti quanti, che su questa vicenda, tranne delle sane e corrette eccezioni, su questa vicenda, sullo stato di inquinamento in particolare di quella zona di Taranto, ma di tutta Taranto in genere, hanno chiuso più di un occhio. Voglio sentire anche Roberto da Latina, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere come potrei fare per aprire un'azienda di trasporto, perché mi sono informato e ti chiedono iscrizione all'albo dei trasportatori, che ci vuole un corso dai 3 ai 6 mesi, una capacità finanziaria, riduzione di 100-150 mila euro, poi oltre al conto terzi e varie iscrizioni, è impossibile fare una cosa del genere, purtroppo il trasporto su gomma è quasi in mano tutto alle cooperative, quindi non danno la possibilità di lavorare o di investire, poi come si fa a chiedere di investire in Italia con questa burocrazia? Ecco, cioè dell'investimento che uno fa, che cosa rimane? Ecco, vorrei una spiegazione dai tecnici, dai nostri politici, non so. Roberto, purtroppo il ministro Zanonato poteva stare solo nella prima mezz'ora e quindi ormai ci ha lasciato. È anche questa è una questione che ci poniamo sempre. Intanto sentiamo cosa succede su strade e autostrade. 9 in punto. Allora, Presidente Gozzi, lo ricordo, Presidente di Federacciai, qual è la exit strategy da questa vicenda secondo lei? Cioè, ha sentito un ascoltatore ci parla di commissariamento, anche se il Ministro dice che questo non è possibile. Come se ne esce da questa vicenda? Uscire da questa vicenda è difficile perché c'è di nuovo un problema istituzionale molto grave sui poteri e sui limiti dell'azione dei PM e dei GIP. La prima cosa credo sia quella intanto di stabilire un principio di verità. Ho letto sui giornali oggi rappresaglia dei Riva, sento per fortuna che già questa mattina i giudizi sono più oculati, non c'è nessuna rappresaglia, c'è l'assoluta impossibilità di proseguire nell'attività industriale non avendo disponibilità liquide. I fornitori di rottame chiedono ai Riva il pagamento cash. I fornitori di energia elettrica non vogliono più fornire un'azienda che non ha mezzi di pagamento per pagarli. Io ho drammatizzato la situazione, ma giustamente, dicendo che un provvedimento del genere rischia di portare le aziende dei Riva all'insolvenza, al fallimento, poi magari per essere giudicato improprio, inappropriato, sproporzionato da un giudice che lo giudicherà, ma nel frattempo le aziende vanno in default. Il tema è che bisogna reintervenire sul provvedimento della magistratura, nel senso che, stante le cose come sono, e cioè stante il sequestro di tutte le attività della Riva Acciai, o si ritorna indietro su quel provvedimento o le aziende saranno in una situazione di impossibilità gestionale. E quindi o i magistrati rivedono la loro azione e la correggono, oppure il legislativo dovrà provvedere, come ha già fatto in altri casi. In definitiva, la legge 231 è stata fatta dal governo e dal Parlamento per dissequestrare materiale, prodotti finiti, e che i magistrati di Taranto avevano sequestrato all'Ilva e che avevano condotto alla paralisi dell'attività dell'Ilva. Quindi capisco che è un paese terribile quello nel quale il legislativo e il governo devono intervenire su azioni della magistratura, però questa è la situazione di fatto. Stefano da Taranto, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo intervenire innanzitutto per dire a quell'ascoltatore di Roma che la cassa integrazione non è che va sulla socialità di tutti gli italiani, ma viene in primis pagata dai lavoratori e poi dai contributi delle aziende. Ma detto questo, dato che, voglio dire, sulla questione di Taranto mai si è fatto un ragionamento, non è ancora concluso, però questa città da 50 anni ha pagato il prezzo per l'industria, l'acciaio dello Stato, e adesso non gli si può addebitare il fatto che può essere causa. La magistratura ha fatto benissimo, perché anche se i cittadini, noi tutti, hanno chiuso gli occhi su quello che stava avvenendo, c'era il bisogno di pulire e di far pagare. E poi in Italia, voglio dire al presidente Gozzi, chi paga e inquina è giusto che chi inquina è giusto che paghi, altrimenti veramente si addebita a tutta la socialità il prezzo. I guadagni sono poi di alcuni e i costi vanno sulla socialità e sulla salute dei lavoratori. Il governo su Taranto ha fatto il decreto 231, ma deve capire che deve risanare l'ambiente per questa città, perché diversamente non potrà mai avere il consenso di questa popolazione che da 50 anni è vittima dei problemi di inquinamento. Grazie Stefano per il suo intervento, il quale Gozzi ci introduce forse quella che è la questione centrale qua, no? La distinzione tra la necessità di mantenere l'operatività di un'azienda e, come dire, l'intervento della magistratura sulle persone fisiche, insomma, no? Sì, ma intanto bisogna distinguere, ha ragione l'ascoltatore di Taranto. Taranto paga 50 anni di industria non soltanto siderurgica, ma per quanto riguarda la siderurgia 50 anni in cui lo Stato è stato per larghissima parte proprietario, quindi non c'è dubbio che lo Stato italiano ha un debito nei confronti della comunità tarantina, così come non c'è dubbio che chi inquina paga e che se i Riva hanno fatto degli errori da questo punto di vista devono essere chiamati alle loro responsabilità anche economiche. Per la verità ricordo sempre che i Riva negli anni della privatizzazione, cioè dal 95 alla fine del 2012, hanno investito a Taranto più di 4 miliardi e mezzo di euro, di cui 1,3 miliardi e 4 in ambiente. Non sono stati proprietari che hanno preso i soldi e sono scappati, hanno investito una fortuna a Taranto e quindi hanno dimostrato di credere nell'azienda e di sostenerla, perché il primo modo con cui gli imprenditori dimostrano di credere nelle loro aziende è quello di investirci. Hanno investito poco in ambiente, può darsi, un giudizio lo determinerà. Però oggi il tema è un altro, nel senso che tutti gli aspetti di carattere ambientale su Taranto sono regolati da norme dello Stato, dalle AIA. C'è una discussione, ad esempio, leggo, tra Bondi e i magistrati sostengono che ci vogliono 4 miliardi per attuare l'AIA, il commissario Bondi, che se ne sta occupando in maniera molto approfondita, parla di meno della metà, e quindi vedete come le cose sono complicate e cambiano a seconda dei punti di vista. Ma in questo caso il tema è ancora un altro, cioè in questo caso c'è una presunzione, la definisco presunzione perché, ripeto, non è stata mai sottoposta ad alcun giudizio. Che i Riva abbiano portato via da Taranto 8 miliardi, cosa che a chiunque si intende di, non di siderurgia, ma di economia, risulta cervellotica, è impossibile. E in base a questo presunto ammanco, ci chiede qualche ascoltatore, Presidente, perché giudica cervellotico questo calcolo? Giudico cervellotico perché le basi sui quali è stato effettuato sono basi totalmente infondate. Se il monte profitti che tutta l'Ilva, tutto il gruppo Riva, di cui l'Ilva è circa il 70%, ha fatto dal 95 al 2011 è di 4 miliardi e 2. Se il monte investimenti fatto su Taranto è di 4 miliardi e mezzo, cioè più di quanto la famiglia Riva abbia guadagnato su tutte le sue attività nel periodo, ma come si fa a dire che sono stati sottratti a Taranto 8 miliardi? Da dove vengono questi 8 miliardi? 8 miliardi di sottofatturazioni? Ma è pensabile che un'azienda che fornisce per il 75-80% del mercato italiano sottofatturi ai suoi clienti? I suoi clienti la lasciano sottofatturare? È un ragionamento che cadrà in giudizio di fronte a un tribunale, come dire, terzo, di fronte a ragionamenti pacati, di fronte ad articolazioni di ragionamenti tecnici. Questa cosa cadrà, così come è caduta penosamente il ricorso di incostituzionalità. Io mi sono letto il ricorso del GIP Todisco per incostituzionalità della legge 231, siamo stati parte di quel procedimento, nel senso che anche noi abbiamo partecipato come Federacciaia alla difesa della legge 231, non una sola di quelle motivazioni sono state accolte dalla Corte Costituzionale, dimostrando che anche questi giudici, come tutti, possono sbagliare. Perché io parlo di accanimento? Perché c'è il rischio che errori reiterati di questa magistratura facciano fallire le aziende. E allora, rispetto a questo rischio, occorre assumere la responsabilità di chi governa e del Parlamento per correggere queste distorsioni. Un'ultima domanda, mentre mi pento di non aver chiesto al ministro Zanonato se pensa ad un decreto, ma insomma, capita, signori. Ho 30-40 secondi, Presidente, ma lei li ha sentiti Riva? Assolutamente sì, ci siamo visti ieri purtroppo in una triste occorrenza, che è stato il funerale di Steno Marcegaglia, che era un grandissimo amico e grandissimo cliente. Ci siamo parlati perché anch'io, come giustamente diceva prima Zanonato, volevo capire cosa stava succedendo, volevo essere informato in tempo reale e in dettaglio. Ho parlato con Cesare Riva, ho parlato con Ferrante, che mi hanno spiegato la situazione, che, come dicevo prima, non è assolutamente di rappresaglia, ma è di gravissimo stato di necessità, che le fabbriche sono ferme perché non hanno più i soldi con i quali andare avanti. E questo è un problema che bisogna risolvere nelle prossime ore, perché, come diceva il Ministro, queste non sono aziende decotte, non sono aziende senza mercato, non sono aziende performanti, efficienti, uno dei tanti fiori all'occhiello dell'industria italiana del nord, e la loro attività ha una ripercussione su una filiera lunghissima, per cui il problema non riguarda soltanto le aziende dei Riva, ma riguarda l'enorme numero di brevemente, abbiamo 10 secondi, ma i conti cervellotici gliel'hanno detto loro, Gozzi, o è lei che l'ha? No, sono valutazioni. Mi assumo la responsabilità. La responsabilità. Allora, la fermo, dobbiamo chiudere, se no ci tolgono la linea. Ricordati! Mancano 17 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.